Cristina Giorgina Rossetti, la sacerdotessa riservata, 1830-1894. Cristina Giorgina Rossetti nacque nel 1830 a Londra, 5 giorni prima dell'americana Emily Dickinson. Le fu dato il nome della nonna paterna, la principessa Cristina Bonaparte, nipote di Napoleone e cugina di Napoleone III. Fu l'ultima di 4. Maria Francesca, 1827-1876, Dante Gabriel, 1828-1882, William Michael, 1829-1919. Nati e nate un anno di distanza l'uno dall'altra. Il padre, Gabriele Rossetti, fu un poeta e critico originario di Vasto, esiliato dai Borboni per la sua condotta anticattolica e insurrezionalista. Portando con sé la sua passione per la politica e la letteratura, per Dante e per Napoli, si stabilì a Londra, dove insegnò lingua e letteratura italiana e sposò Francis Polidori, educatrice e donna colta con un carattere forte e risoluto, sorella di John Polidori, medico personale di Byron e autore del romanzo Il vampiro, capostipite dell'archetipo che divenne poi una pietra miliare nel romanzo gotico, con grande influenza sulla nipote. Secondo le memorie di famiglia scritte da William, l'unico argomento di litigio dei genitori era in materia di fede religiosa. Gabriele era di educazione cattolica, ma forte critico della condotta della Chiesa. Francis era anglicana e molto devota. Date le precarie risorse economiche, la famiglia Rossetti si trasferì nella malfamata Charlotte Street, ma ben presto la loro abitazione divenne il fulcro di grande fermento tutto italiano. Rifugiati, letterati, rivoluzionari, artisti, partigiani, musicisti, esuli, gente di ogni estrazione sociale che passava quotidianamente o alloggiava periodicamente, dando vita ad un centro culturale in cui la discussione politica si mischiava alla declamazione poetica, con quel tipico fare italiano che ci distingue in tutto il mondo. Come per le sorelle Bronte e Branwell, il legame delle sorelle e dei fratelli Rossetti fu altrettanto forte e anche la loro storia è indissolubilmente legata. L'educazione fu tenuta in grande conto dai genitori e tutti e quattro parlavano fluentemente inglese con la madre e italiano per il resto del tempo, rimanendo per lo più isolati nella bolla familiare. Mentre Dante e William frequentarono il college e assorbirono l'influenza paterna di libero pensatore cattolico, Maria e Cristina furono istruite dalla madre alla fede anglicana e al rigore domestico. Credo che ebbe una grande impronta nella vita di entrambe e che accrebbe il forte legame di ammirazione e che accrebbe il forte legame tra il ramo femminile della famiglia. Ai figli e alle figlie non fu mai negato l'accesso alla prolifica biblioteca del nonno paterno e nemmeno alle discussioni politiche e filosofiche che quotidianamente avvenivano sotto il loro tetto. Il via vai domestico permise loro di ricevere anche lezioni di musica e di pittura, oltre che ascoltare i versi dei capolavori antichi e moderni. Vicino casa, Regent's Park offriva loro lunghe passeggiate e il giardino zoologico affascinava e turbava Cristina allo stesso tempo. Già all'età di 5 anni, Maria sfoggiava le sue doti linguistiche leggendo e scrivendo fluentemente in italiano e in inglese. E, a 13 anni, sentì di essere chiamata alla vita religiosa, dedicandosi con stoicismo ad una vita seria, rigida e devota. Dante, spirito libero e dominante, dimostrò precocemente un grande talento nel dipingere e fu indirizzato agli studi artistici. La sua vita viaggiò su binari paralleli a quella di Branwell Bronte. William, dai modi gentili e timidi, apprese con fervore e facilità gli insegnamenti familiari ed ereditò la predisposizione materna verso il lavoro e la responsabilità. Fu il miglior amico di Cristina, la quale iniziò a comporre versi prima ancora di saper scrivere e mostrò il suo temperamento italiano vivace, spontaneo e passionale, rivaleggiando abilmente con Dante in duelli di creazione poetica. La sua forte sensibilità e grande fantasia furono stimolate dalle storie popolari che la madre amava raccontare ai figli e alle figlie e dall'immaginario biblico che Maria illustrava con ardore e suggestione alla sorellina. Tra i giochi e le sfide, i 4 Rossetti mostrarono il loro precoce talento e impararono ad essere indipendenti, dilettandosi insieme nella stesura della rivista familiare chiamata Hodgepodge. L'unico momento che permetteva loro di uscire dalla bolla domestica erano le vacanze estive a Holmer Green, la casa dei nonni materni fuori Londra, dove i ragazzi e le ragazze amavano girovagare per i campi ed esplorare la natura. Nel 1839, quando Cristina aveva 9 anni, i Polidori vendettero la casa e si trasferirono nella metropoli. Il nonno materno Gaetano Polidori, scrittore, drammaturgo ed editore, acquistò una macchina per la stampa che in seguito permise ai Rossetti di pubblicare i loro componimenti. Lo stesso anno, il 1839, anche i Rossetti cambiarono casa, ma si spostarono di pochi metri e fu proprio qui che Cristina, tra i 12 e 17 anni, avviò l'inaspettata metamorfosi da bambina vivace e facinorosa a donna fortemente scrupolosa, timida, contenuta e silenziosa dallo sguardo pensieroso spettrale. I motivi di questo cambiamento furono molteplici. Il primo lo avrebbe descritto di lì a qualche anno Elizabeth Barrett Browning nel suo poema Aurora Lei, in cui l'ononima protagonista, anche lei poeta, mezza italiana e mezza inglese, subisce la rigida educazione femminile vittoriana e la svilente posizione delle donne nel mondo letterario prettamente maschile, entrambe in conflitto con il desiderio di affermare il proprio talento. Un altro motivo fu sicuramente il duro colpo che nel 1842 la salute del padre Gabriele Rossetti subì. La perdita della vista ed una bronchite cronica lo investirono, obbligandolo a lasciare l'insegnamento, unica entrata di casa. Per mantenere la famiglia, Frances, la madre, iniziò a lavorare come educatrice. Maria, la sorella, oltre a dedicarsi alla scrittura come critica letteraria, trovò un posto come istitutrice, passando lunghi periodi fuori casa. William lasciò il college e trovò lavoro come esattore, rinunciando a malincuore al suo sogno di studiare medicina. Dante, invece, continuò i suoi studi artistici alla Royal Academy, incurante dei sacrifici familiari per sostenere la sua istruzione. Cristina, ancora troppo giovane per contribuire alle finanze, aiutava nei lavori domestici e accudiva il padre malato, dedicandosi alla lettura e alla poesia nei momenti liberi. In pratica, passò la maggior parte della sua adolescenza da sola a casa, nella preoccupazione di ciò che poteva succedere alla famiglia e nell'angoscia di dover lavorare come istitutrice. Cercò rifugio nella fede religiosa e si dedicò al sacrificio del suo essere, autoimponendosi una condotta morale irreprensibile, con l'intento di sopprimere qualsiasi ambizione e vanità e percorrendo quel sentiero spirituale di auto-osservazione che tanto conoscono le mistiche studiate da noi della Scuola delle Donne. Inoltre, rifiutò di partecipare alla vita teatrale ed artistica per il disgusto che l'immoralità del mondo dello spettacolo le suscitava e smise di giocare a scacchi per domare la bramosia della vittoria e del successo. Il suo animo sensibile, però, non resse alla pressione e alle preoccupazioni. La sua salute iniziò a dare i primi cenni di cedimento con attacchi di rabbia e di panico e inoltre le fu diagnosticata l'angina pectoris che a quel tempo poteva facilmente degenerare in malattie anche letali. Cristina iniziò così a vedere la morte come un evento liberatorio in cui l'anima si libera delle pesantezze del corpo, delle restrizioni morali e della pressione familiare e sociale. Ecco una sua poesia intitolata Canzone. Quando sarò morta, mio caro, non cantare per me tristi canzoni e non piantare rose sulla mia tomba, né l'ombra del cipresso. Sia l'erba verde sopra di me, bagnata dalle piogge e inumidita dalle gocce di rugiada. E se vorrai, ricorda. E se vorrai, dimentica. Io non vedrò le ombre e non sentirò la pioggia, né l'usignolo udirò cantare la sua pena. E sognando nel crepuscolo, che non sorge né tramonta, per caso possa io ricordare e per caso possa dimenticare. Un ulteriore motivo di questo cambiamento di personalità può essere riscontrato nella rigida forma che la Chiesa anglicana attuò in quegli anni, imponendo un codice di comportamento femminile sempre più intransigente e puritano, che con la madre e la sorella Maria Cristina fece proprio, imparando, come scrisse lei, a non essere la prima e dominando i suoi istinti e celando le sue emozioni. Scrisse in una sua poesia: «Non essere la prima. Quanto è difficile imparare quella lezione di tutta la vita del passato. Linea incisa su linea e colpo su colpo, ma grazie a Dio alla fine imparata. Così ora con pazienza possiedo la mia anima anno dopo anno tedioso, contenta di occupare il posto più basso, il posto che mi è stato assegnato qui». Nel 1847, a 17 anni, il nonno materno pubblicò per la famiglia la prima raccolta di versi di Cristina e dei fratelli. Nello stesso periodo, Dante, il cui carattere era troppo ribelle e renitente per gli studi universitari, lasciò la Royal Academy per prendere lezioni private e con William ed altri amici artisti diede vita al circolo chiamato The Pre-Raphaelite Brotherhood, la fratellanza pre-raffaelita. I giovani e promettenti artisti intendevano distaccarsi dal pensiero conservatore e devozionale dell'Accademia e si ispiravano con nostalgia al pensiero rinascimentale che, secondo loro, perse i suoi puri valori di bellezza e naturalezza a partire da Raffaello Sanzio in poi. Il gruppo si incontrava in segreto in luoghi diversi, a volte anche nella casa di Charlotte Street. Così avvezza al fermento ideologico, tanto che anche Gabriele Rossetti, seppur quasi cieco e malato, presenziava con entusiasmo agli incontri. La visione della donna come musa ispiratrice e i canoni di bellezza ideale pre-raffaeliti non andarono mai a genio a Cristina, che ufficialmente non aderì al gruppo, ma svolse un ruolo attivo tra loro, tanto da essere soprannominata la grande sacerdotessa del pre-raffaelitismo. Se di lei si parla spesso in termini di modella per le opere del fratello e dei pittori del gruppo, in realtà lo stile di Cristina acquisì un forte impulso creativo e fu ampiamente elogiato dalla confraternita, diventandone il riferimento della branca poetica e partecipando alla pubblicazione del periodico The Germ, il germe, infelice tentativo dei preraffaeliti per diffondere le loro idee, mantenendo segreto il loro nome. Della condizione delle donne viste come muse, che in realtà erano pittrici ed artiste, abbiamo ampiamente parlato nella classe del marzo 2024, dal titolo Pittrici, non muse. Sebbene le sorelle e fratelli Rossetti fossero soliti criticarsi e confrontarsi anche animatamente sui loro componimenti e decidere insieme su revisioni e pubblicazioni, il carattere dominante di Dante e il suo giudizio oppressivo nei confronti della sorella minore nascondeva la sua indecisione sulla direzione nella vita e nel percorso professionale. Tra gli adepti pre-raffaeliti, il pittore James Collins si innamorò di Cristina e si dichiarò, ma lei lo rifiutò perché cattolico. Collins si convertì così all'anglicanesimo e i due si fidanzarono, ma ben presto il ragazzo tornò sui suoi passi e per la giovane fu un duro colpo. Con il cuore spezzato, Cristina annullò il fidanzamento ed entrò in depressione. Scrisse nella poesia intitolata Una fine. L'amore, forte come la morte, è morto. Venite, rifacciamo il suo letto tra i fiori morenti, un prato verde alla testa e una pietra ai suoi piedi, dove possiamo sedere nelle ore di quiete della sera. Era nato in primavera e morì prima del raccolto. L'ultimo giorno della calda estate, egli ci ha lasciato, non sarebbe rimasto per il crepuscolo dell'autunno freddo e grigio. Sediamoci alla tomba e intoniamo, lui è andato via. Con pochi accordi tristi e bassi cantiamo così. Sia i nostri occhi fissi sul prato, velati d'ombra come il passato, mentre pensiamo a tutto ciò che è stato tanto, tanto tempo fa. Dopo la rottura del fidanzamento, Collins lasciò la confraternita, la quale iniziò a subire duri attacchi dalla critica. Nel frattempo, la condotta di Dante, con debiti e sbalzi di umore, iniziò a pesare sull'economia familiare, ma fu William a prendersene cura, iniziando a lavorare anche come critico per una rivista. Su iniziativa materna, nel 1850, la famiglia si spostò ad Arlington Street per aprire una scuola femminile gestita da Francis e Cristina, la quale fallì dopo pochi anni. Tramite contatti familiari, madre e figlia si lanciarono in un altro progetto educativo a Fromfield, nel Somerset. Ma la morte dei nonni materni e la malattia del padre convinsero William e Maria a riunire la famiglia nuovamente nel 1854 a Londra, nella zona di Regent's Park, dove avevano vissuto la loro adolescenza. Gaetano Rossetti lasciò il corpo di lì a pochi mesi. William si dedicò a diversi lavori di traduzione con l'indispensabile aiuto di Cristina e di Maria, le quali non vennero mai menzionate come coautrici. Per aiutare la famiglia, Cristina, anche se cosciente del suo talento artistico e in cerca del senso della vita, trovò lavoro come istitutrice e insegnante di italiano, soffrendo tremendamente la lontananza da casa ed ammalandosi proprio come successe a Emily Bronte. Tornata a casa, si chiuse sempre di più nella fede e nella poesia, due forze che furono sempre in conflitto dentro di lei. La fede la spingeva al sacrificio e all'isolamento, mentre la poesia le dava il piacere di creare, di sfogare i suoi sentimenti e il desiderio di essere riconosciuta come poeta. La poesia Il posto più basso recita così: Dammi il posto più basso, Non che osi chiederlo, ma tu moristi perché io potessi vivere e condividere la tua gloria al tuo fianco. Dammi il posto più basso, o se per me troppo alto fosse, fanno un altro ancora più basso, dove possa sedermi per vedere il mio Signore e così amare te. Gli anni 60 dell'Ottocento portarono cambiamenti nella vita di Cristina. Iniziò a fare volontariato presso un istituto religioso che dava rifugio ad ex prostitute ed espanse il suo cerchio di conoscenze, tra cui la poeta Dora Greenwell e la scrittrice Anne Gilchrist. In questo giro di amicizie ritrovò Charles Cayley, linguista esperto di Dante che in passato aveva collaborato con Gabriele Rossetti. I due si innamorarono e si frequentarono per diversi anni. Cristina riacquistò così la speranza di vivere la felicità anche nell'amore. Quando iniziarono a pensare al matrimonio, lei capì che la ricerca dell'unione spirituale e fisica non poteva essere raggiunta con un uomo che si professava agnostico e ruppe il fidanzamento, ma i due rimasero sempre in contatto. Rivolse così la sua dedizione alla madre settantenne, alla cura della casa e alla scrittura. Dopo decenni di frequentazione altalenante, nel 1860, Dante sposò la pittrice e poeta Elizabeth Siddal, che egli dipinse in tanti quadri. Se da un lato il talento artistico di Elizabeth fu apprezzato e nutrito dai preraffaeliti, la relazione con Dante, infedele ed egocentrico, fu morbosa e disastrosa per la salute di lei, già cagionevole. Entrata in depressione, la donna prese ad assumere oppiacei per alleviare il dolore non solo fisico, ma soprattutto spirituale. La perdita del figlio fu talmente devastante da portarla al suicidio, assumendo una dose eccessiva di laudano. Il senso di colpa in Dante scatenò una forte depressione e l'ossessione di contattare la moglie morta, cercando consolazione nell'alcol, negli oppiacei e nel tentativo di suicidio. Di questi anni è anche il poemetto più famoso e discusso di Cristina, Il mercato dei folletti, pubblicato nel 1864 a 32 anni e l'unica opera nella quale ruppe gli schemi con il suo corpus poetico e con una forte impronta gotica. Nel mercato dei folletti, in un clima di magia ed incanto, le due sorelle Laura e Lizzie, uno dei soprannomi di Elizabeth Siddal, sono ammaliate dalla voce dei goblin che vedono frutta prelibata. Pur conoscendo i risvolti dell'insidiosa chiamata, Laura, per golosità, casca nella trappola e perde la sua vitalità, cadendo vittima della bramosia e iniziando il declino verso la morte. Lizzie, per soccorrerla, chiede ai goblin della frutta per la sorella. Questi la istigano, ma invano, e lei, rifiutandosi di soccombere al loro sortilegio e alle loro violenze, raccoglie il succo dei frutti sul suo corpo senza ingerirne una sola goccia. Poi torna di corsa a casa. Laura la bacia e le succhia il corpo imbevuto del succo prelibato, ma il sapore ora è amaro e spiacevole, ma funge da antidoto contro il suo declino. Questa opera appare una fiaba allegorica che può essere letta su diversi livelli. Inizialmente Cristina sembra esortare a tenersi lontane dalle tentazioni dei goblin, ossia persone e situazioni che ci seducono per gustare i loro frutti prelibati, avvelenandoci l'anima. Questa palese critica alla società patriarcale è sottolineata anche nel finale, in cui la risposta a queste tentazioni può venire solo dalla sorellanza e dal supporto che può dare la stretta maglia di connessione amorevole tra donne. Così recitano alcuni versi del Mercato dei Folletti. Perché non c'è amica come una sorella, in tempo calmo o tempestoso, per rallegrarla sulla via tediosa, per andare a prenderla se si smarrisce, per sollevarla se si vacilla, per rafforzarla mentre ci si sta alzando. In un'ulteriore analisi, il riferimento con Eva e con il peccato originale viene descritto come la soddisfazione di un desiderio che crea dipendenza e che priva l'anima della sua vitalità. Le due sorelle rappresentano la dualità insita in ognuna di noi e il cammino che ciascuna intraprende per raggiungere l'autosufficienza psichica, anche attraverso il sacrificio. Alla dipartita di Elizabeth Barrett Browning, quest'opera le valse il titolo di sua erede. Le due poete non si incontrarono mai, nonostante i fratelli Dante e William collaborarono con i Browning per alcuni lavori. Tra il 1864 e il 1865, a 35 anni, Cristina ebbe l'opportunità di viaggiare con la madre e col fratello William, in Francia e nell'Italia settentrionale, la tanto declamata matria paterna. Ne fu estasiata, ma allo stesso tempo si sentì anche disconosciuta e comprese che quello non era il suo posto. Scrisse alcune poesie in merito, una intitolata In viaggio, che recita così: Perché mi sei straniera e non madre? Mi hai rubato il cuore e l'hai spezzato. Potessi chiamare i tuoi figli fratelli, chiamare le tue figlie dolci sorelle. Addio, terra amata, Italia, sorella del paradiso, ti ho calpestato coi miei piedi, ti ho vista con i miei occhi, ti ricordo mentre tu mi dimentichi, io ti ricordo. Benedetta sia la terra che mi riscalda il cuore e il clima mite che lo rallegra, i visi cordiali e ignari di inganni, la dolce lingua che mi risuona nelle orecchie. Prendi il mio cuore, prendine la parte più vera, o amata terra, prendi le mie lacrime. La poesia Italia, io ti saluto, recita come segue. Ritornare dal dolce sud al nord, dove sono nata, cresciuta e aspetto di morire. Tornare per svolgere con zelo il mio lavoro quotidiano, per mettere in scena la mia storia. Amen. Amen, dico. Non vedere più il paese che per metà è mio, né udire più la lingua che mi è per metà familiare. Amen, dico. Mi volgo verso lo squallido nord da cui sono stata generata. Il sud è fuori portata. Ma quando le rondini si leveranno ancora in volo verso sud, verso il dolce sud, forse le lacrime torneranno a spuntare nei miei occhi come un tempo e alle mie labbra il dolce nome. Nel 1870 Cristina pubblicò la raccolta di racconti in prosa Commonplace and Other Stories, Luogo comune e altre storie. E nel 1872 si dedicò alla poesia per bambini e bambine con la raccolta illustrata Sing Song. La sua cagionevole salute però divenne sempre più precaria. A 41 anni le fu diagnosticata la malattia di Grave, che le deformò i tratti somatici, e seguì un attacco cardiaco che le provocò dolori e sofferenze per 2 anni. Nonostante un lento recupero, le fu difficile mantenere la concentrazione e scrivere. La religione fu la sua unica ancora e iniziò a scrivere prettamente poesie devozionali. Nel 1873 la sorella Maria prese i voti ma non smise di scrivere e rivedere i suoi testi di critica letteraria. Inaspettatamente lasciò il corpo 3 anni dopo per un tumore all'utero. Nel 1874 il matrimonio di William con la pittrice e scrittrice Lucy Maddox Brown portò scompiglio nella famiglia. Le preoccupazioni di Cristina e della madre riguardo al loro agnosticismo e la diversa routine degli sposi portarono le due donne a trasferirsi nella casa delle zie materne nel quartiere di Bloomsbury e fu Cristina a prendersi cura delle 3 donne anziane. Nel 1881, a 51 anni, pubblicò la raccolta Pigeon and Other Poems, Il corteo e altre poesie, e Called to be Saint, Chiamata per essere santa. Ma le venne sempre più difficile scrivere e concentrarsi. Tra queste raccolte, il poemetto Monna innamorata racchiudeva la visione dell'amore che per Cristina si traduceva in un desiderio di morte, l'unico modo per i due amanti di sublimare la loro unione. L'ennesimo esaurimento del fratello Dante condusse la sua salute ad uno stato miserabile di dipendenza e sofferenza che lo rese sempre più dipendente emozionalmente da Cristina. Lei, con stoicismo e distacco, paragonabili alle cure di Emily Bronte per il fratello Branwell, lo supportò e lo curò per anni fino alla sua dipartita nel 1882 all'età di 54 anni. Frances, la madre, 86enne, lasciò il corpo 4 anni dopo. A causa del dolore e degli sforzi, la salute di Cristina subì un ulteriore colpo. Nel 1891, a 61 anni, le fu diagnosticato un tumore al seno e nonostante l'operazione, lasciò il corpo a 64 anni dopo una lunga ed estenuante agonia. Come fece Charlotte Bronte alla morte delle sorelle, William raccolse le lettere, scrisse le memorie della famiglia e curò alcune raccolte postume di Dante e di Cristina. Ma, come per alcuni precedenti lavori di traduzione, fu fortemente criticato per tagli e modifiche arbitrarie ai testi originali. Lasciò il corpo a 90 anni e fu sepolto nell'affollata tomba di famiglia nel Highgate Cemetery. Per il centenario della nascita di Cristina, nel 1930, Virginia Woolf celebrò la poeta con il saggio breve I am Cristina Rossetti, elogiando l'istintività e la musicalità della sua poesia, anche quando la sua visione cruda e rigida del mondo marcava il suo pensiero critico dell'Inghilterra ottocentesca. Con la sua ironica capacità di scrutare l'anima, Virginia rinforzò il patto di sorellanza con lei e con le altre poete descritte. Ora tocca a noi mantenerlo vivo.